Il figlio che non nacque. Donna, improvviso al tuo pensier ritorna stanotte il figlio non veduto in volto né accostato al capezzolo, che avanti di nascere morì dentro il tuo seno. E ricordi il presagio che ti morse le viscere, e lo strazio, e quell'arresto del tempo in te, ma non per te, pel figlio, e il tuo terrore d'affondar con lui in un torrente fumido e vermiglio. Ada Negri.